America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da Milano, Mario Platero, sono in Italia per qualche giorno. Una notizia intanto: Barack Obama ha commentato positivamente l'accordo raggiunto in Congresso per evitare un nuovo muro contro muro sul bilancio, ricorderete lo shutdown, la chiusura del governo americano, insomma si è riusciti a risolvere questo problema. Ma oggi non vorrei parlarvi di economia, vorrei parlarvi d'altro. La commemorazione di Nelson Mandela allo stadio di Soweto, uno stadio che porta il suo nome. Beh, ieri devo dire è stata una giornata davvero molto commovente, di partecipazione globale. Credo che sia raro che ci possa essere una partecipazione come quella che abbiamo visto ieri. Pensate, 91 capi di Stato e di governo si sono recati a questa commemorazione, una delle partecipazioni più grandi credo che ci sia mai state nella storia dell'umanità. In questo stadio ieri c'erano 95.000 persone assiepate sugli spalti, per non parlare di tutti coloro che non sono riusciti a entrare, sono rimasti fuori dai cancelli a seguire la cerimonia dai grandi monitor. Beh, ci sono alcuni elementi centrali, ce n'è uno in particolare che secondo me merita di essere messo in evidenza in questa nostra epoca della polarizzazione, del muro contro muro, del litigio assoluto, spesso gratuito, e cioè il messaggio centrale e simbolico di Nelson Mandela, che è quello della riappacificazione, di lavorare insieme. Sentiamo Jacob Zuma, che è il presidente del Sudafrica, un presidente controverso per molte ragioni, però che ha combattuto al fianco di Madiba, faceva parte di questa grande comunità di leader africani che combattevano per la libertà, per l'uscita dall'apartheid, insieme appunto a Nelson Mandela. The whole world is standing still again to pay tribute to this greatest son of South Africa and Africa. Jacob Zuma dice: era unico, Madiba era unico. Non voleva essere un messia o un santo. I suoi risultati, dice, ci sono stati grazie a un lavoro comune, a un lavoro collettivo. E questo, vi dicevo, il messaggio forte che poi abbiamo ascoltato in altri discorsi. Bene, allora sentiamo l'opinione di Enrico Letta, il nostro Presidente del Consiglio, anche lui tra i grandi della Terra che hanno presenziato questa commemorazione. Mandela è stato uomo di unione, uomo che ha unito, e questo secondo me è un grandissimo messaggio per la politica, nostra, per la politica europea. Credo che sia uno straordinario messaggio che oggi qui da Johannesburg viene. Beh, dunque, in perfetta sintonia Letta su quello che è il motivo di fondo di queste celebrazioni, un messaggio per tutti noi. Letta, che tra l'altro, fra tutti i discorsi commemorativi, a un certo punto ha sottolineato come quelli di Ban Ki-moon e di Obama sono stati, secondo lui, fra i più forti, fra i più significativi. Allora, partiamo da Ban Ki-moon. This stadium holds tens of thousands of people. But even an arena as big as African continent could not contain our pain today. Il messaggio più forte di Nelson Mandela è stato quello di riuscire a muovere il Sudafrica dall'apartheid, dal separatismo, a una democrazia multirazziale. Ha mostrato, ha detto Ban Ki-moon, il grandissimo potere del perdono, di riuscire a comunicare, a connettere le persone fra loro, persone molto diverse fra loro. Era un dono unico ed è questa la lezione che ha condiviso con tutta l'umanità. E lo ha fatto ancora, ha detto Ban Ki-moon in uno dei momenti più commoventi di questa cerimonia. Dice: guardate attorno a questo stadio, guardate attorno a questo palcoscenico e vedrete leader che rappresentano molti punti di vista, genti da ogni parte del mondo e della vita, e siamo tutti qua insieme, uniti. People of every race and every walk of life, the world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. Il presidente americano Barack Obama ha guidato la delegazione in arrivo dagli Stati Uniti d'America. C'era George W. Bush con la moglie Laura, c'era Bill Clinton con Hillary, c'era persino il presidente Jimmy Carter, insomma l'America che ha molto contribuito all'evoluzione del Sudafrica, anche con delle sanzioni pesanti dal punto di vista economico, ha dato una dimostrazione straordinaria di solidarietà con il Sudafrica e con il messaggio di Mandela. E Obama dice: Mandela aveva capito quali sono i legami che legano lo spirito umano. C'è una parola in Sudafrica, Ubuntu, ha detto, e c'è stato un applauso quando l'ha pronunciato, una parola che raccoglie il dono più grande di Mandela, il riconoscere che siamo tutti legati insieme in modi che sono invisibili all'occhio umano, che c'è un'unicità dell'umanità, che possiamo realizzare noi stessi condividendo noi stessi con gli altri e occupandoci di coloro che sono attorno a noi. Jimmy Carter, diamo la parola a questo presidente americano molto idealista, perché ha parlato di nuovo dal punto di vista simbolico di quella che è stata poi una traduzione concreta di questo messaggio di unità, e cioè di una stretta di mano fra Barack Obama e Raul Castro, il fratello di Fidel. Si sono incrociati e si vede proprio Obama, l'abbiamo visto, che stringe la mano di Raul, il quale ricambia il suo sguardo, di questa stretta di mano che Jimmy Carter ha definito senza precedenti per un presidente americano. Speriamo, ha detto, che porti alla comprensione non soltanto fra Cuba e gli Stati Uniti, ma che sia un esempio per tutti. Da Milano è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani.